questo discorso lo si potrebbe fare così, interrogando gli esperti in queste scienze, il filosofo in quanto tale, l'esperto in scienze storiche in quanto tale, l'esperto in scienze psicologiche e sociologiche in quanto tale, per ascoltare cosa essi dicono sulla fede, sulla fede psicologica. Ma questo lavoro più o meno lo si sta già facendo, o si suppone comunque. Oppure si potrebbe pensare anche a un bel incontro interdisciplinare, qualche volta l'abbiamo fatto noi a livello studente, interpellando e facendo mettere insieme le prospettive di teologi e di questi rappresentanti delle varie scienze. Questa volta, mi preme di sottolineare l'aspetto formale, noi non convochiamo queste scienze o questi aspetti o i rappresentanti di questi aspetti perché ci parlino per reagire su di noi e farci reagire, ma chiamiamo direi quattro rappresentanti teologi, cioè di persone le quali hanno già tentato di rispondere a queste provocazioni. Quindi non abbiamo il filologo, lo sociologo, lo psicologo, eccetera, eccetera, ma avremo un teologo, il quale investe noi come teologia, il quale ha fatto l'esperienza di dialogo con la filosofia moderna, dirà quello che lui pensa, i frutti credi di aver ottenuto potrebbe ottenere. Così chiamiamo un teologo che ha fatto già lo stesso itinerario e sforzo sulla sponda dell'incontro con le scienze storiche. Così il teologo che ha fatto la stessa esperienza di dialogo con le scienze psicologiche e sociologiche. Insisto su questo. Per il resto, formalmente dico che l'incontro, come se lo prevediamo come è stato quello dell'anno scorso, diventerà molto proficuo se non soltanto per ogni relazione ci sarà la discussione, ma se la tavola finale, la tavola rotonda finale, vedrà veramente il mettere a fuoco alcuni nodi, alcuni problemi che emergeranno dalle quattro relazioni e che saranno ripresi insieme da tutti e quattro i relatori in compagnia e in armonia con noi, perché ne risulti anche un maggior contributo finale, diciamo, per la nostra prospettiva. Ecco quello che mi premeva dire. Per il resto, allora cominciamo col padre Kern, e allora Monsignor Roger dirà qualche cosa su questo. Grazie anche di questa inquadratura, che è veramente l'idea del convegno. È l'idea che avete anche capito a chi dobbiamo il merito, io soprattutto ai colleghi del Triveneto, che non ho bisogno di aggiungere parole, no? Lo conosciamo e lo riconosciamo. Una notizia, sono arrivati anche Latourel e Ambrosio appena adesso, quindi insomma, tra pochi minuti sono qui e cominciamo col carro che viaggia con tutte le quattro ruote. Il padre Kern ha mandato esemplarmente la sua, cioè me l'ha consegnata più di un mese fa, la sua relazione è stata tradotta dal collega Don Dusini, è stata a lui riconsegnata appena oggi. Padre Kern, vedo, ci ha fatto un grande lavoro anche per ridurla nelle proporzioni di una lezione presentabile adesso, perché la proporzione è parecchio più ampia. Ecco, adesso su mia insistenza il padre Kern, pur con una certa riluttanza, accetta di provare a leggerla in italiano. Siccome la cosa però, almeno secondo sua impressione, può portare forse qualche difficoltà, in questo caso io vedrò dalle vostre facce se è il caso che io vi prenda fuori di mano i cuori e continui la lettura io stesso, se siete d'accordo, approfittando della abnegazione senza limiti del nostro caro padre Kern, no? Ecco, datemi un segno con tutta libertà se ritenete che, ecco, no? Quindi insomma sarò anche a disposizione per qualunque comunicazione di intesa, vero, di interventi. Io vi ho detto anche che poi padre Kern è ordinario di teologia fondamentale all'Università di Innsbruck e è membro del nostro comitato scientifico. Ecco, questo in parole brevissime, a amico validissimo e sostenitore caldo delle iniziative del nostro istituto, che dobbiamo grande riconoscenza. Ecco, allora proviamo da questi punti. Sì. Signore, signori, sulle difficoltà del linguaggio il professor Roger ha detto il più necessario, spero. Rimane la cosa stessa. Il tema, la filosofia come fermento della teologia fondamentale in modelli recenti elaborati da teologi tedeschi. Il tema stesso dà ragione dei propri limiti. Trattiamo dell'influsso di idee filosofiche sulla teologia fondamentale cattolica. Tale rapporto intendiamo presentarlo servendoci di tre modelli di teologia fondamentale proposti da teologi tedeschi attuali. Lasciamo a parte le considerazioni storiche sul rapporto tra teologia e filosofia. Vorrei presentare a loro primo, la teologia fondamentale come antropologia trascendentale di Carlo Rano. Secondo, il metodo ermeneutico di Eugenio Piso. Terzo, il progetto di una teologia fondamentale pratica critica della società di Giovanni Battista Metz. Primo, i libri sono quelli più importanti. Carlo Rana, nato nel 1904, era stato dapprima destinato dai suoi superiori al compito ad insegnare storia della filosofia. Tale piano però è stato fatto saltare dal rifiuto del suo lavoro per il dottorato in filosofia, Geist in Welt, da parte del moderatore. Il padre Rano in tutta la sua vita si è occupato di dogmatica a Innsbruck e a Münster con un intermezzo sulla cattedra di Guardini a Monaco dal 64 al 67. Rano fece parte durante i suoi studi a Freiburg della scuola cattolica di Heidegger. Determinante per tutti costoro, e in ciò consiste la loro differenza specifica cattolica, fu lo influsso del gesuita belga Joseph Maréchal. Costui intorno agli anni 1920 a 1930 aveva assunto il metodo trascendentale di Kant e lo aveva sviluppato oltre Kant, analizzando il momento dell'affermazione della posizione attuata nell'atto del giudizio, indagando circa la sua condizione ultima di possibilità, la realtà incondizionata. Innanzitutto desideriamo passare brevemente le correnti filosofiche, le cui linee di influsso si intrecciano nel pensiero di Carlo Rano. Primo, si deve accettare la filosofia medievale dell'alta scolastica soprattutto nella forma della metafisica dell'essere di Tommaso d'Aquino. Contro le restrizioni della dottrina manualistica neoscolastica, Rano, nel senso della dottrina classica dei trascendentali, omne enses unum verum bonum, sostiene la concezione dell'essere come pienezza dell'essere e dei valori, perfectio perfectionum. Secondo, in tale comprensione dell'essere, Rano è determinato anche dalla filosofia esistenziale di Martino Heidegger. Punto di partenza diventa anche per Rano l'analitica dell'esistenza dell'uomo. La sua interpretazione come existenza indica la via per la concezione dell'uomo nella sua autotrascendenza. Heidegger influisce fino nelle espressioni linguistiche di Rano, ad esempio nel suo esistenziale soprannaturale. Terzo, in maniera simile influì su Rano la progetica dell'immanenza francese. Maurice Blondel insegnò a Rano a ricercare una via di mezzo tra l'estrinsecismo della teologia fondamentale di scuola secondo il Vaticano I e un chiuso immanentismo chiamato modernismo, combattuto dal magistero nel primo decennio di nostro secolo. Per Blondel, l'uomo è l'essere che proprio nel fallimento di tutti i progetti di esistenza immanenti al mondo si vede rinviato con necessità interna oltre se stesso verso il Dio della nuova vita della grazia il quale gli viene incontro. Quarto, oltre a ciò, a Rana, per comprendere e fondare la trascendenza dell'uomo serve fondamentalmente il metodo trascendentale di Kant. Il metodo di Kant ricerca le condizioni a prioristiche della possibilità della conoscenza oggettivante collocata nello stesso soggetto uomo. Tale metodo della ricerca dell'oggettività nella soggettività che la precede e ne è a fondamento, è detto con Kant trascendentale. Kant, nella critica della ragion pura, riteneva di poter identificare come premesse a prioristiche della conoscenza oggettiva, accanto alle 12 categorie dell'intelletto, le forme sensuali di tempo e spazio. Per contro Rano, con Joseph Maréchal, spezza i limiti di una soggettività finita, ripiegata su se stessa, chiusa in se stessa. Egli apre la trascendentalità dell'uomo verso la trascendenza di Dio. L'orizzonte infinito trascendentale dello spirito umano che conosce e che vuole, egli lo vede fondato, da ultimo, nel principio infinito trascendente della verità e della libertà sussistenti. Questo passaggio o rottura lo si è rimproverato a Rano come fraintendimento, anzi perversione, del procedimento trascendentale della filosofia di Kant. Rano però sembra preoccuparsi poco di questo rimprovero. Importante per lui è solo la forza di analisi del processo trascendentale per il contenuto. E di ciò noi dobbiamo occuparci qui ancora più dettagliatamente. Ciò che in Rana nasce dall'interferenza di campi di forza filosofici appena indicati è un progetto trascendentale del tutto originale di un sistema teologico in prospettiva di teologia fondamentale. Vogliamo tentare di delinearne i punti rilevanti per il nostro contesto. Primo, dal orizzonte trascendentale al principio trascendente, coscienza della verità e esigenza della libertà fanno vedere l'uomo aperto al mondo, riferito all'essere in misura fondamentalmente illimitata. La dinamica dello spirito umano nel conoscere e nel volere va oltre ad ogni oggetto finito, come pure oltre la somma di tali oggetti. Essa non può essere riempita mediante una realtà finita e un valore finito. In tal modo, il fine conforme al nostro spirito e al suo orizzonte infinito è il principio incondizionatamente infinito. La pienezza di realtà e di valore che noi chiamiamo Dio. Mediante il suo rapporto con questo principio, l'uomo è costituito come uomo. Secondo, la soprannaturalità dell'uomo. La tradizione cristiana assegna alla natura spirituale dell'uomo un desiderio naturale in visione Dei. e a ciò corrisponde anche l'idea guida di Blondel. È il pensiero cerniera di Rana che l'uomo, come esiste di fatto, non ha solo una natura pura, bensì è destinato alla grazia, alla vita di Dio già ora, ma che si compierà un giorno nella gloria come visione di Dio. Questa determinazione non consiste quasi esteriormente in un decreto divino, essa impregna piuttosto interiormente e radicalmente la natura dell'uomo. Questa dotazione e capacità dell'uomo, Rana la definisce esistenziale soprannaturale. Esso è il centro più intimo della sua esistenza, proprio perché esso consiste nell'auto-offerta di Dio. Rana in proposito insiste sul fatto che questa determinazione essenziale della natura è anche conscia all'uomo senza che perciò essa debba essere riflessa come tale, come grazia. Rana parla di una rivelazione trascendentale. Chiunque conscio in tal modo risponde positivamente a questa offerta di grazia di Dio che in lui abita, è un cristiano anonimo. Terzo, cristologia come forma suprema della antropologia. Ad ogni uomo è offerta l'autocomunicazione di Dio mediante l'esistenziale soprannaturale che egli è proprio. Egli vi è invitato e chiamato. La fede cristiana professa l'autocomunicazione di Dio all'uomo come attuata in maniera insuperabile nell'incarnazione di Dio in Gesù Cristo. Essa si è attuata in modo unico e particolare in Gesù ed è tuttavia, nello stesso tempo, la forma più elevata, esemplare e normativa della partecipazione alla vita di Dio, quale è aperta a tutti gli uomini in forza della determinazione soprannaturale loro impressa. Quarto, le conseguenze categoriali. Alla trascendentalità naturale e soprannaturale corrisponde la sua categorialità. Che cosa si vuol qui indicare? Il libro di Rana, Geist in Welt, discute speculativamente della conversio ad fantasmata che, secondo San Tommaso, spetta essenzialmente allo spirito umano. Esso si esprime nel mondo in determinate immagini rappresentative e in forme materiali, forma di spazio e di tempo, nella società e nella storia, nelle istituzioni e nelle tradizioni. Tutto ciò costituisce il categoriale, esso è, per così dire, il corpo dello spirito. Questa prospettiva filosofica è rimasta un fermento per tutto il pensiero di Rana. L'ordinamento trascendentale dell'uomo a Dio si manifesta categorialmente nelle forme di religione che accompagnano la storia dell'umanità. Perciò anche alle religioni non cristiane spetta per i loro membri una funzione salvifica positiva, anche se d'ordine relativo. Rana parla di una rivelazione universale, cioè, per così dire, la categorialità di ogni cristianità anonima. Essa non esclude la necessità della rivelazione speciale mediante Gesù Cristo e la parola del suo Vangelo, anzi piuttosto la esige. Infatti, ciò che è anonimo esige la sua nominatività. Esso raggiunge la sua forma completa e univoca soltanto nella manifestazione storica che è la meta e il significato della sua struttura essenziale. Rana la vede attuata nella Chiesa Cattolica con le sue strutture e funzioni essenziali, i suoi dogmi, sacramenti e ministeri. Si vede un'apologetica che viene sviluppata muovendo dal rapporto fondamentale tra trascendentale e categoriale, da ultimo dall'antropologia trascendentale. Si è rimproverato, specialmente alla seconda parte del corso fondamentale sulla fede, una ricaduta in una teologia fondamentale tradizionale impegnata a difendere ogni particolarità cattolica. Più importante sempre a me la questione critica circa la posizione e il valore dell'evento di Gesù, del fatto originario cristiano nel sistema di Rano. Non è forse speculativamente schiacciato e fagocitato? Indeducibile rimane ancora soltanto la circostanza che l'incarnazione accada precisamente in questo individuo, Gesù di Nazareth, non in un altro. Si è anche pensato che sarebbe propriamente più consona alla concessione del sistema l'incarnazione di Dio in tutti gli uomini, non soltanto in un unico uomo. Certamente restano ancora alcuni altri problemi, ad esempio circa il significato e il rapporto di rivelazione speciale e universale. Qui importava schizzare il progetto che fa apparire il mistero cristiano della fede come premessa e mediazione dell'autoattuazione dell'uomo. Teologia fondamentale, trascendentale, come mistagogia razionale, per usare un termine programmatico irano. Secondo modello, più breve. Eugenio Biso, teologia fondamentale ermeneutica. Eugenio Biso, nato nel 1918, dopo gli studi teologici e filosofici, è stato professore di teologia fondamentale a Passau e a Würzburg. Egli occupa dal 1974 la cattedra di Guardini di cultura cristiana e di filosofia della religione all'Università di Monaco di Baviera. Un punto fondamentale del lavoro scientifico di Biso è il confronto con Nietzsche nell'ambito dell'interpretazione e del superamento dell'ateismo moderno. La tesi di Biso suona: la fede deve essere compresa ermeneuticamente, ciò significa alla maniera di un atto di comprensione che giustifica se stesso. Appunto in ciò sta la sua motivazione. In ciò la comprensione si mostra come la forma universale della fede e questa, la fede, come il caso speciale religioso del comprendere. Biso mira dunque a un nuovo indirizzo della teologia fondamentale, il quale colloca la prova all'apologetica non nel preambolo razionale della fede, bensì nella fede stessa, e coerentemente sviluppa l'autoesposizione critica della fede. Si tratta dell'autodimostrazione della fede cristiana, della forza di dimostrazione propria proveniente alla fede nel suo atto. L'atto di fede stesso è il punto di partenza della motivazione della fede. La fede deve brillare come comportamento fondamentale per poter essere credibile come obbligo. In Biso dunque, al posto delle questioni preliminari dei preambola fidei, subentra un'analisi strutturale ermeneutica dell'atto di fede stesso. Le radici filosofiche da cui nasce questo tentativo sono di vario genere. Primo, la dialogica di un Martino Buber, imparentata con il personalismo francese, ha riabilitato l'importanza propria del linguaggio, della parola, l'eccedenza, il plus che il linguaggio ha sul pensiero rende possibile la trasmissione dell'esperienza della fede. Il linguaggio si rivolge subito all'altro, al tu umano. Anche la fede, per provare la sua credibilità, deve sviluppare una forza comunicativa. La concezione di Bieser si fonda sulla mediazione empirica del linguaggio in duplice senso, passivo e attivo. Il linguaggio viene comunicato mediante l'esperienza ed esso, da parte sua, comunica esperienza. Perciò rende possibile il carattere responsoriale, dialogale della fede, il suo atto originario proprio, il cui atto originario proprio è la sua trasmissione attestante agli altri, e il cui mezzo necessario è la comunità e la prassi di amore attivo. Secondo, in maniera altrettanto forte, la teologia fondamentale di Bieser è stata improntata dall'ermeneutica filosofica, quale è sviluppata soprattutto da Hans-Georg Gadamer, sulle basi della filosofia, rispettivamente della teologia esistenziale di Heidegger e di Bultmann. Il suo concetto chiave è il comprendere. Le sue particolari forme e condizioni Gadamer le descrive nell'ambito del mondo storico degli uomini. La legge fondamentale del comprendere è il circolo ermeneutico, l'insieme di un testo letterario, di una forma storica, eccetera, si fa comprensibile muovendo dai singoli tratti asserti, eccetera. Ma ogni singolo, da parte sua, diventa accessibile soltanto nell'ambito di una precomprensione data insieme, quasi di una chiave musicale posta davanti alle singole note. Questo movimento reciproco, dal singolo al tutto e dal tutto al singolo, resta sempre necessario simultaneamente. Esso costituisce un buon metodo di circolo. Anche per l'analisi dell'atto di fede è fondamentale e decisiva la struttura di tale comprensione. La fede si deve dimostrare come la parola fondamentale di un'ampia precomprensione, appunto come atto del comprendere. Anche l'autorità consiste in ciò che essa dà qualcosa da comprendere. Essa, secondo Gadamer, non ha niente affatto a che fare con l'obbedienza, bensì con la conoscenza. Anche e precisamente per Dio che si rivela, ne va del fatto che egli nell'amore che si comunica ha qualcosa a dire, che può essere compreso. Terzo, Bieser si rapporta anche allo strutturalismo, questo rinuncia non solo alla comprensione sostanziale di cose e di processi, bensì anche alla conoscenza del suo contesto storico di sviluppo, del suo prima genetico, al modo di considerare diacronico a favore della pura sincronia appunto delle strutture in quanto tali. Ora il punto centrale. L'analisi strutturale ermeneutica della fede dialogica. Fede significa una conoscenza fondata sul sapere altrui, assunta dai testimoni e raggiunta in dialogo con loro. Con la conoscenza il credente riceve anche la certezza. Nel caso non si potrebbe però parlare di un sacrificio della ragione stessa, di un sacrificio intellectus, però come si attua la certezza all'interno del processo di comunicazione fede? Questo è il problema. La fede fattasi trasparente per la sua struttura di comprensione presenta essa stessa i necessari elementi di certezza. Isa si richiama alla triplice mediazione di evidenza di ogni dialogo concreto. I tre fattori del dialogo sono il contenuto del dialogo, il tu che interpella e l'io interpellato. Come la va ora in questo gioco dei fattori con le implicazioni che forniscono l'evidenza della fede interpretata dialogicamente perché così attuata? Fede decisamente non significa un essere vincolato a dati di fatto fissabili dogmaticamente e da ritenere come tali. Fede significa assai più la loro attestazione dialogica. La fede testimoniata che vive di una testimonianza accettata sta in una connessione insopprimibile con l'autore della testimonianza. In genere, nella fede non si tratta primariamente di sapere, nel senso di accettazione di contenuti trasmessi dogmaticamente, bensì di certezza, e questo con lo scopo dichiarato di appoggiare e di consolidare nell'esistenza, muovendo dall'atto di fede, l'uomo per vari motivi insicuro e combattuto. Chi crede ha a che fare con il Dio vivo, il quale non solo sostiene il mondo in quanto ne è causa, bensì è entrato nella sua storia. È così intesa la fede come atto di conferma esistenziale, corrisponde all'intenzione fondamentale di Gesù, il quale innanzitutto non si preoccupava né dell'istruzione né del miglioramento dell'umanità, bensì del sollievo degli oppressi e degli afflitti. Concreti, singoli. Per il credente tutto dipende dalla riconversione possibilissima, anche se non mai completamente raggiungibile, del messaggio della rivelazione verso l'origine, verso Dio che si rivela e che comunica se stesso. Nel collegamento e nella riconduzione del contenuto del dialogo al tu di Dio che parla, l'io umano interpellato coinvolge anche se stesso. La comunicazione della fede non è rinchiusa nell'immanenza di un circolo umano di comprensione. L'io interpellato trascende se stesso nel tu interpellante. Infatti ciò che viene partecipato appare nella fede non solo come significato da cogliere cognitivamente, bensì anche come peso che bisogna sopportare e portare, come il peso di Dio stesso. La fede che Dio comprende consiste però nella volontà di prendere su sé se questo peso, nella speranza che alla fine i rapporti si capovolgono e colui che porta l'uomo divenga colui che è portato. Io non ho ben compreso questa proposizione. Dunque, la fede che lo comprende, che comprende Dio, no? Consiste però nella volontà di prendere su di sé questo peso, nella speranza che alla fine i rapporti si capovolgano e colui che porta, cioè l'uomo, divenga colui che è portato. Sì. La colpa così l'atene significa credere, credeo Deum, e tale fede si compie in dono e accettazione partecipanti la vita di Dio. Terzo, Giovanni Battista Metz, Teologia fondamentale pratica, critica della società. Giovanni Battista Metz, nato nel 1928, è stato ad Innsbruck per lunghi anni discepolo di Carlo Rahner, ne è, si può ben dire, il discepolo principale. Nel 1962 Metz fu chiamato quale professore di teologia fondamentale all'Università di Münster, dove ancora oggi lavora. Nel 1968 Metz propose come conclusione del piccolo libro Soteologie der Welt, sulla teologia del mondo, sotto il nome di teologia politica, una nuova teoria che subito fece molto parlare di sé ed esercitò grande influsso fino nell'attuale teologia della liberazione dell'America in America del Sud. Si dovrà qui presentarne il programma di una funzione di critica della società spettante alla Chiesa e alla teologia. Innanzitutto però si dovrà illustrare lo sfondo di storia dello spirito della teologia politica, il suo rapporto con il problema di teoria e prassi di Karl Marx, per quanto possibile. Primo, la base filosofica della teologia politica. Già per l'illuminismo francese del secolo VIII è spezzata l'unità di religione e società, ovvia nel Medioevo. La sua critica della religione e più tardi la critica della religione del marxismo cercarono di smascherare la religione quale sovrastruttura ideologica di determinati rapporti e interessi sociali. Per poter rispondere a questa critica, la teologia deve riflettere sulle proprie implicazioni sociopolitiche. Per la teologia metafisica classica ciò era impossibile, mi sembra. Il rapporto di religione e società era per essa, per principio, senza problemi. Se la teologia moderna nel suo indirizzo trascendentale, verso Rahner, esistenziale, verso Bultmann, e personalistico, ad opera di Buber ed altri, aveva preso atto della situazione problematica creata dall'illuminismo, aveva però tacitamente o apertamente trattata la dimensione sociale del messaggio cristiano come impropria, come secondaria. Essa avrebbe, questa teologia anteriore, avrebbe privatizzato il cristianesimo quando riduceva la pratica della fede alla decisione acosmica del singolo. In essa dominavano preferibilmente le categorie dell'intimo, del privato, del apolitico. Anche e precisamente quanto è stata data evidenza al rapporto io-tu, al incontro personale. La deprivatizzazione, secondo Metz, è perciò il compito negativo teologico-critico della teologia politica. Metz cerca di ancorare in modo più elevato la funzione positiva di critica della società spettante alla teologia nella nuova situazione di partenza della ragione critica dopo l'illuminismo e specialmente dopo Hegel e Marx. Propriamente nuovo è il rapporto fondamentale tra ragione e società, il rapporto sociale della riflessione critica e con ciò l'impossibilità di tener conto dell'esigenza critica della ragione puramente teorica. Illuminato è, secondo Kant, colui che è la libertà, che ha la libertà di far uso pubblico della propria ragione in ogni punto. E ciò significa colui che contemporaneamente lotta per lo stabilimento di quelle condizioni sociopolitiche delle quali dipende, se sia possibile un uso pubblico della ragione. Specialmente la filosofia dialettica di Hegel concepisce la verità come un evento che coinvolge Dio stesso nel divenire nella storia. Certezza è una situazione soggettiva, per contro verità si attua nella penetrazione nell'universo oggettivo. Essa si deve verificare nella realtà e il concetto realmente accaduto è la verità, è il concetto realmente realizzato. Ciò significa idea nel senso specificamente hegeliano. Verità è verifica nel tutto e al tutto come il tutto. Per Marx Hegel significa il compimento della filosofia nel regno del pensiero. La realtà nel pensiero di Hegel sarebbe appunto una ragione rimasta pensata, una ragione irreale. Ad essa sta rozzamente di fronte la realtà irrazionale del suo tempo, del tempo di Marx, del primo capitalismo. Marx vuole riconciliare ragione irreale e realtà irrazionale. Ciò deve accadere con la soppressione della filosofia mediante cui questa è contemporaneamente attuata. Aufhebung della filosofia è soppressione e attualizzazione insieme. Soppressione per mediante la attualizzazione. Mediante il trapasso della teoria in prassi, i filosofi hanno. Questo è il metodo. Il trapasso della teoria in prassi. I filosofi hanno solo interpretato il mondo diversamente, interessa modificarlo. Nella programmatica di teoria e prassi elaborata da Marx apparve a Metz il problema fondamentale della teologia attuale. La determinazione classica del rapporto fides-ratio, come anche il problema recente del rapporto di teologia sistematica e storica, di dogma e storia, si concretizza, si riproduce su un piano epocalmente nuovo come il rapporto teoria-prassi. Per l'orientamento alla prassi della teologia di Metz contribuì decisamente la situazione epocale del decennio fra 60 e 70. Sorsero allora le cosiddette teologie del genitivo, dello sviluppo, della rivoluzione, della secolarizzazione, della speranza e del futuro. Nell'area di lingua tedesca tale lavoro della teologia è stato soprattutto stimolato e profondamente segnato da Ernesto Bloch. Così soprattutto prima e accanto a Metz il teologo evangelico Jürgen Moltmann. Per Bloch il mondo è il laboratorium possibile salutis. L'umanità è chiamata all'esodo, exodus, tra suoni di fanfare, scarlatte o piuttosto rosa-rot, verso il regno secolare umano della libertà, del futuro, del sempre nuovo. L'ontologia del non ancora esige la lotta sul fronte del utopismo. In onore di Bloch, Metz scrisse un articolo commemorativo Gott vor uns. Lo sguardo era concentrato a Dio davanti a non sopra di noi. Dio sta davanti a noi, non è sopra di noi. Al Dio che viene e alla società più umana del futuro. L'incontro di Metz con Bloch è stato fiancheggiato progressivamente, se vedo giusto, dal occuparsi con i teoremi più discussi sviluppati dalla scuola di Francoforte, in parte già intorno al 1930, poi dopo il suo rinnovamento in Germania tra il 50 e 60. Come una volta al tempo del giovane Marx, gli Hegeliani di sinistra, così nel nostro passato recente Max Horkheimer, Theodor Adorno e Jürgen Habermas hanno ricettato il pensiero del tutto di Hegel, la sintesi totalizzante della sua dialettica, denunciata perfino come totalitaria, che si attua mediante la negazione della negazione, come legittimazione dell'esistente, come strategia ideologica di acchetamento, mentre essi volevano fermare il triplice passo dialettico, per così dire, al suo secondo gradino, quello dell'antitesi, della negazione, appunto affinché esso, il processo dialettico, non si fermi nel riflusso rapacificato verso la tesi, bensì perennemente stimoli mutamento, progresso critico, prassi rivoluzionaria, verifica mediante l'azione. La formula programmatica di Adorno suona dialettica negativa. Secondo, la programmatica di teoria e prassi, insieme con la riflessione metodologica della dialettica negativa, viene trasferita da Metz nella sua teologia politica con l'aiuto del topos teologico dell'escatologia. Così entra in azione una parola capitale e una tendenza fondamentale della teologia cristiana del nostro secolo. Ciò rende possibile la deprivatizzazione della teologia e la sua funzione critica della società, che ora dobbiamo caratterizzare un po' più particolareggiatamente. Ma in realtà c'è un'alternativa adesso di caratterizzare la teologia politica di Metz o di proporre l'ulteriore evoluzione della politica, della teoria, della teologia politica di Metz, l'uno o l'altro. Se lei conosce, insomma, la teologia politica, lasciamo a parte. E parleremo ancora un po' sull'evoluzione posteriore. Così? Dieci anni dopo il libro sulla teologia del mondo, Metz ha pubblicato un altro libro, Fede nella storia e nella società, e questo libro è la documentazione di un'ulteriore evoluzione del suo pensiero fra l'ultimo decennio, e vorrei ancora sottolineare un po' le stazioni principali di questa evoluzione. La via della teologia politica alla teologia fondamentale pratica, come adesso Metz chiama la sua teoria, passa attraverso parecchie stazioni. La discussione circa il progetto indusse Metz già assai presto non solo a guardare in avanti verso il compito futuro della Chiesa di critica alla società, bensì anche a interrogarsi più fortemente circa le sue radici nel passato. Memoria Jesu suona il nuovo titolo, già circa l'anno 70. Il ricordo in generale nel singolo uomo e ancor più nel collettivo umano rappresenta una forza di rinnovamento, di capovolgimento dei rapporti. Esso può assumere un carattere pericoloso, sovversivo. La memoria è una forza sovversiva nella storia. Attraverso il ricordo, la speranza escatologica è ancorata nella società e nella storia. Tale mediazione l'età ferma tenuta alla realtà. Ciò avviene in misura eminente per il messaggio e più ancora per il destino di Gesù. Gesù è il paradigma della storia di sofferenza dell'umanità. Egli, il corifeo della speranza, è il primo di tutti coloro che a volta e ora stanno non della parte solleciata dei vincitori, bensì della parte tenebrosa dei vinti, degli oppressi, delle vittime, degli ammalati e dei soli. Certo, a Metz non importa ora soltanto della società futura, egli si batte per la solidarietà perfino con i morti dimenticati e con la loro sorte non congelata. Das nicht abgegoltene Schicksal. Una solidarietà non in avanti, ma per così dire all'indietro. La memoria passionis della passione nell'ampiezza umana universale che include anche la dimensione passata del tempo. Questa memoria passionis viene risvegliata e tenuta desta non mediante argomentazione teologica, bensì mediante una nuova teologia narrativa. Anche questa parola programmatica indica una primitiva stazione della via percorsa nell'ultimo decennio da Metz. Ciò che gli Evangeli raccontano della vita e dei dolori, della croce e della risurrezione di Gesù si può ripeterlo nel presente e per verità in modo così chiaro, immediatamente convincente e contagioso come in quei racconti antichi. Così la narrazione insieme con il ricordo e la solidarietà diventa categoria basilare, radicale, di una teologia fondamentale pratica. La solidarietà in tal modo proclamata con i viventi e con i morti, che risulta viva dal ricordo di Gesù attraverso i racconti conformi ai Vangeli, forma un fondo universale, politico-mistico di vita umana, più umana, in cui è fondata la teologia politica e in ciò consiste la sua cristianità. In questa memoria di Gesù, che è la memoria della storia di passione di tutta l'umanità, specialmente i morti, questi che erano le vittime della storia. L'interesse della teologia politica sempre un vero e proprio pratico interesse e non è più tanto indirizzato ai sistemi sociali quanto agli uomini che soffrono sotto gli stessi. A loro la specificamente cristiana nuova prassi deve portare aiuti per essere soggetti. Tutti gli uomini devono diventare soggetti in questo senso empatico. Questa ora è diventata formula del fine per Metz, che l'uomo divenga in senso pieno e vero soggetto della propria vita e della propria storia nel contesto sociopolitico mediante solidarietà reciproca. L'essere soggetto preso di mira non si deve raggiungere mediante un evoluzionismo che comporta proprio la morte del soggetto, né mediante un'utopia totalitaria quale paradiso dei vincitori. La teologia fondamentale di Metz cerca di dibattere le condizioni sotto le quali si può salvare il dimenticato soggetto uomo, il soggetto umano, l'uomo. Infatti, che i cristiani credano di superare in Cristo il dolore della morte e della colpa, non li scioglie per nulla dall'impegno solidale a vincere sempre più il dolore dell'oppressione e dell'ingiustizia, del non poter ancora o non poter più essere soggetti. Metz sintetizza così la parte prima programmatica di Glaube in Gesellschaft und Geschichte. La fede del cristiano è una prassi nella storia e nella società che si comprende come speranza solidale nel Dio di Gesù, come nel Dio dei viventi e dei morti, che chiama tutti all'essere soggetto davanti alla sua faccia. La teologia fondamentale pratica di Metz è così ormai teologia politica del soggetto, della persona umana in comunione con i propri simili, al limite con tutti gli altri simili. Abbiamo sentito ora la definizione di Metz della fede dei cristiani. Gli è stato rinfacciato che egli non definisca mai la sua teologia fondamentale, ma non è sufficientemente chiara la sua mira ultima. La conservazione e la prova della fede cristiana mediante la solidarietà universale così delineata è una prova della fede nella prassi solitaria degli uomini. D'altronde è questa da sola già la teologia fondamentale cristiano-cattolica. Brevissima riflessione conclusiva. I tre modelli di teologia fondamentale che abbiamo presentato si riferiscono a il soggetto della fede, l'uditore della parola, presorano, all'evento della fede, il processo dell'udire e del comprendere, presso viso, all'opera della fede, oppure l'effetto della fede, la prassi come verifica della fede, presso mezzo. Le filosofie che hanno influito in modo prevalente, ma non esclusivo, su questi modelli sono la filosofia trascendentale, l'ermeneutica filosofica, il marxismo, nella forma revisionistica elaborata da Bloch specialmente e dai francofortesi. In tal modo ci sono stati offerti esempi per la fecondazione che il pensiero teologico può sperimentare e per principio deve sperimentare non solo attraverso una filosofia per ennis che si pretende fissata una volta per sempre, bensì attraverso il pensiero, anche il pensiero filosofico dell'epoca moderna situato nel mutamento. Tale rapporto è l'espressione della storicità insopprimibile del pensiero umano e perciò anche del pensiero teologico e dei suoi condizionamenti sociali. In proposito sarebbe da sviluppare adesso ancora una piccolissima riflessione sistematica da una pagina. In ogni caso dal fatto che il teologo è rinviato al filosofare del passato e del presente, ne derivano conseguenze per la legittima pluralità di teologie destinate a coesistere e a sopravvivere. La legittimità, perlomeno relativa, delle forme concrete qui proposte di progetti teologici segnati filosoficamente si vede dal confronto e contrario con filosofismi illegittimi per la teologia. La forma estrema di una discussione trascendentale dell'evento della rivelazione quale la intrapresa Rano si trova nella costruzione dialettico-spirituale del cristianesimo che Hegel ha elaborato in una forma classica difficilmente superabile. Qui si può giustamente diagnosticare una superalienazione speculativa della religione rivelata che diventa religione aperta per la ragione umana. Che offenbarte religione wird offenbare religione, c'è un gioco delle parole che non si può tradurre in italiano. Secondo, il tentativo di Piso, che è questa, e questa, no. Secondo, il tentativo di Pisa che si attua secondo la sua intenzione in una analisi strutturale immanente alla fede sta in prossimità alla teologia evangelica protestantica della fede quale al presente viene proposta specialmente in Germania da Eberhard Jüngel da Tübingen in una maniera a mio giudizio che va oltre Lutero. Qui tutta la conoscenza di Dio, in modo tragicamente grandioso, ma anche deviante, viene ristretta all'interpretazione del vertice paradossale della fede nella morte di croce del figlio di Dio. Crux probat omnia, supponeva Lutero. Crux probat omnia, nient'altro. Infine, un pensiero teologico ispirato da Marx e dai neomarxisti si manifesta in alcune esposizioni della teologia della liberazione latinoamericana, in quanto vi si tratta di una politicizzazione della religione cristiana, faccio notare, rifiutata da Metz. Per la pluralità delle teologie, rispettivamente dei metodi all'interno del lavoro teologico, piuttosto per la pluralità delle filosofie, rispettivamente dei metodi filosofici all'interno del lavoro teologico, soltanto ciò sia detto. Appunto una pluralità di metodi, quasi nel senso della teoria della convergenza di Hume, è un rimedio contro gli estremismi della specie appena citata. Metodi che si completano a vicenda, si relativizzano anche a vicenda. Questa relativizzazione impedisce la fissazione esclusiva su una sola idea, psicologicamente tanto facile e comprensibile, e con ciò la sua ideologizzazione. Già la teologia fondamentale tradizionale conosceva un certo spettro di criteri di credibilità della rivelazione cristiana oltre i signa certissima del Vaticano I. Quanto mai mi sembra oggi, sia che ne godiamo o ne soffriamo, che ogni forma, ogni aspetto, ogni motivo, ogni visione, ogni rinvio possa aiutare l'uomo a credere in modo responsabile, sia non da disprezzare, bensì da accogliere con modestia e con riconoscenza. Kern mi diceva prima di leggere, pensate, che lui si sentiva angosciato. Pensate adesso che deve ascoltare e poi rispondere. Facciamo così per renderli facili e meno pesante il peso. Ognuno di quelli che vogliono intervenire faccia con chiarezza la domanda e subito lui risponde, tentando se vuole di rispondere in italiano, se no proverà un po' in tedesco e qualcuno aiuterà a tradurre. Allora, insisto sul senso di questo nostro simposio. Noi vogliamo vedere come la teologia fondamentale deve porsi di fronte alle nuove culture, al nuovo modo di presentarsi della situazione, e in particolare questa volta di fronte alle nuove correnti filosofiche, eccetera. Padre Kern ha esemplificato, su richiesta, mi ricordo quella volta, dell'istituto nostro, gli è stato detto: è meglio che, già che lei viene dalla Germania, anche ci informi. Ecco perché lui ha prevalentemente trattato il problema esemplificando e scegliendo tre modelli. Però la parte più interessante adesso per noi non è la parte informativa, ma è l'ultima parte, forse volete la più breve, che lui ha svolto, cioè dove ha tratto delle conseguenze ottimistiche con certi anche limiti, eccetera. Allora io direi che le domande dovrebbero vertere prevalentemente su quest'ultimo punto. Lui ha già trattato il problema di una filosofia perennis che però chiede di prestare attenzione positiva alle varie istanze culturali. Insisterei su questo ultimo punto. Se qualcuno vuole cominciare su questo, a fare qualche domanda. Incomincio riferendo il piccolo dibattito tra alcuni amici. Lei ha preso in considerazione questi tre autori. In che misura queste filosofie veramente colgono la cultura del tempo? In che misura attraverso questo ascolto delle filosofie, queste filosofie, si è sicuri che la teologia e la fede dialoghi con la cultura? Questo. Possono cogliere evidentemente sempre una fetta delle espressioni culturali del tempo, un settore. E questo può accadere a piani diversi, sia teoretici. Teoretici. In la transcendental filosofia o in la hermeneutica. Nella filosofia trascendentale o ermeneutica. Weniger philosophisch reflektierten Weise in den Theoremi, in den marxistischen Theoremi. O in modi meno riflessi nei teoremi marxisti e affini. Ich behaupte nicht, dass die marxistischen Theoremi in sich nicht reflektiert seien, aber ihr theologischer Gebrauch ist es jedenfalls die meisten. Non afferma che siano in se stessi non riflessi i teoremi marxisti, ma nell'uso teologico che si fa di essi, questo accade di spesso. Nicht also die Kultur einer Zeit ist ein äußerst vielfältiges Gefäß. La cultura di un tempo è un tessuto estremamente ricco e vario. Kann einzelne Sondierungen vornehmen und versuchen bestimmte Bewegungen. Si possono fare dei sondaggi, individuare certe tendenze, ma molto difficile definire e la cultura di un tempo è un conceptus collectivus di noi. Vagabundus. Ma allora continua il discorso. Non è più coerente, mettiamo il bis, il quale coglie due o tre stimoli, invece di fermarsi a uno solo, la filosofia trascendentale coglie Martin Buber, coglie altri tre valori. Und mir scheint auch, das sei die einzige Möglichkeit heute. Wir leben in einer Zeit, die fast ein bisschen alexandrinisch ist, und ich habe eine tiefe Skepsis gegenüber den großen theologischen Entwürfen. Si può dire questo, il modello proposto da Buber per questa sua sincretismo. Insomma, si avvicina forse di più alle sue preferenze, dice, no? Però questo sincretismo lo rende sempre più difficile l'intelligenza tra i diversi teologi. Il sincretismo, con uno si fa, non un certo suo sistema deve pure farsi, cioè pure attraverso l'apporto di varie correnti, perché un'unità di pensiero è indispensabile, questo è chiaro, no? Tutti i discorsi contro la mancanza l'impossibilità di una sistematica si infrangono contro il fatto elementare che l'uomo, ecco, è per istinto profondo portato all'unità, all'unità di pensiero. Dunque, anche questo sincretismo c'è uno sforzo di sintesi. Ora, appunto, i diversi teologi si fanno ciascuno il loro sistema con stampo sincretista, del resto anche Rane, in un certo senso, no? Parlato dei diversi ironi che convengono Rane, Kant, Heidegger, Blondel, Marechal, eccetera. Questa è la mia domanda, era molto semplice, no? Proprio in questa cultura che è veramente pluralista, come non lo è mai stato, ecco, il teologo è portato, se ha una sua originalità, non ogni teologo, quindi alcuni teologi che hanno una particolare originalità e creatività, è portato, se ha molto sensibilità per queste correnti culturali, a farsi un pochino il suo sistema. Questo rende veramente sempre più difficile poter comprendere il teologo, no, il suo pensiero che proviene, che è alimentato da tanti e tanti motivi filosofici. Lei stesso, mi pare, parlando di adesso non ricordo subito l'autore, Bieser forse poteva essere Metz. Poteva essere Metz, eccetera. Se non sbaglio, Metz è ispirato nella sua ultima evoluzione da questo e questo. Ora, capire anche l'origine di un pensiero, no? L'apporto di motivi convergenti che determinano una determinata base filosofica per un teologo, sarebbe molto importante per poter capire anche il teologo stesso nella sua posizione teologica. Non diventa a un certo punto quasi impossibile questo? Rane, per esempio, in parecchi scritti del dopo concilio, arriva a espressioni che suonano un po' così, dice proprio che il pluralismo è tale che per le forme di pensiero diverse, categorie diverse, linguaggi diversi, i teologi stessi spesso non possono intendersi tra di loro. È troppo pessimistico questa affermazione sulla lunghezza della. Ich hoffe, dass ich auf die wichtigsten Punkte antworten kann. Sì. Spera di poter rispondere ai punti principali. La vita è difficile. Das Leben ist schwer. Sì. e poi non si può sperare che il pensiero sia molto meno difficile che la vita stessa. C'è il nostro destino, Tocci. Non c'è un rimedio che possa liberarci da questa sorte. Di die Einheit des Denkens ist für den Einzelnen notwendig, aber sie ist ein Ziel, auf das er... L'unità del pensiero è una necessità per il singolo, ma è un fine. Questo vale per il, non soltanto per gli studenti, ma anche per i docenti che devono dare aiuto ai studenti in quanto è possibile. Mi sembra che il punto di convergenza vera deve ognuno portare con sé. E con, per il cristiano c'è una certitudine, una certezza e una confidenza che lui dà la sua fede. In una maniera non riflessa da prima, ma che può avere una funzione di criterio selettivo, dirigente. E poi ognuno deve scegliere i motivi, le vie di pensiero, gli strumenti, eccetera, che si inquadrano in questo slancio sperimentale della sua esistenza stessa cristiana. Forse. Non direi che la pluralità dei pensieri, delle filosofie, delle teologie deve fare così grande impressione per noi, un'impressione così beunruhigend. Inquietante. Oh, sono uomini. Dicono oggi questo e 15 giorni o anni dopo una cos'altra. E io, che un vivente di questo tempo, devo trovare la mia via in tutto il mare dei pluralismi cosiddetti. È difficile. Dunque, io do il nome di chi ha parlato, Don Piechele di Trento, Don Pino Ruggeri di Catania. Io chiedo al professor Kern se è d'accordo con una mia osservazione che adesso faccio. A me pare che c'è una differenza fondamentale tra Rahner e Wieser da una parte e Metz dall'altra nel modo con cui affrontano la filosofia, e non soltanto per il fatto che si confrontano con diverse filosofie. No? A me pare, cioè, che per Rahner e Wieser il confronto è appunto con la filosofia, con il pensiero, mentre per il Metz, a partire dalla fase della teologia politica, il confronto non è con il pensiero, il confronto non è con la filosofia, il confronto è con la storia della società contemporanea e con la filosofia chiaramente in obliquo, cioè con la filosofia nella misura in cui in questa filosofia emerge una prassi, emerge un divenire. Questo mi pare una precisazione molto importante, perché, e qui la seconda domanda, io non sarei così convinto, come il padre Kern ha detto, che Metz è influenzato dal marxismo, o che questo sia la filosofia anche nella versione francofortese con cui lui si confronta. Non che non sia vero che non ci siano influssi marxisti, per esempio nella famosa tesi su Feuerbach, sul primato della prassi e altre cose, questo è ovvio, ma mi pare che soprattutto non ci sia la preoccupazione di recepire il marxismo in Metz, come invece ci può essere in Rahner la preoccupazione di recepire Heidegger, di recepire Marechal, eccetera. Perché per Metz, e questo credo che sia un'indicazione metodologica molto importante, il problema non è la filosofia, Il problema è la storia e la prassi della libertà. E lui che con questa si vuole confrontare, non con la filosofia. Se per questo è utile una filosofia, sia ben accetta. Ma il problema non è la filosofia. Ecco, io vorrei chiedere allora, se a partire da qui sei d'accordo il padre Kern, lui volesse sviluppare alcune conseguenze possibili accanto a quelle che lui ha dettato, cioè sul metodo. Allora, e la, cioè, la teologia deve ha interesse veramente alla filosofia o ha interesse al soggetto, alla storia? Siamo in modo centrale. Primo. Primo. Ich bin ganz und gar zu, dass das Verhältnis von einer Wüste zu den Philosophien ein anderes ist, sozusagen ein kategoriales, als bei Metz das Verhältnis zur Philosophie überhaupt. Concede senz'altro che il rapporto dei due primi con la filosofia è di natura diversa, sta a un piano diverso che quello del secondo con la filosofia. Metz selbst beruft sich darauf, dass Marx zu seiner Zeit gegenüber der Philosophie diese Haltung eingenommen hat, dass jetzt die Theorie in Praxis übergeführt werden muss, und zwar vor allem die philosophische Theorie. Metz si richiama esplicitamente al fatto che Marx stesso wie geht's weiter? Die Philosophie als in Hegel vollendet betrachtete, sodass nur noch übrig bleibt. Marx stesso ha considerato la filosofia come chiusa in se, conchiusa in se stessa con compiuta in se stessa con Hegel. Sodass nur noch die Aufhebung der Philosophie in Praxis. In modo che non resta altro da fare che il superamento della filosofia della prassi. Wie nach Aristoteles so etwa, das ist in der Präsentation, in der Präsentation von Marx im Hintergrund. Auch zweitens, secondo. Zweiter Punkt, man muss bei Metz Reflexionsebenen unterscheiden. Occorre distinguere piani di riflessione in Metz. Die erste Reflexionsebene, die erste Ebene ist die Konfrontation mit der geschichtlichen Situation. Primo piano è il confronto con la situazione storica. Aber eben darüber denkt Metz nach und darüber spricht er. Su questo però Metz riflette e und damit gibt er eine philosophische Theorie über seine Konfrontation mit Geschichte und Politik. Und so formula una sua filosofia. Ja, vielleicht kann man sagen, indirekt spricht er über die Geschichte, aber in obliquo über Philosophie. Ja, ganz einfach verstanden. Ja. Und das wollte ich jetzt etwa drittens sagen, dass Metz überhaupt die Anregungen, die geistigen Anregungen, eher ein wenig rhapsodistisch aufnimmt. Ich habe nicht verstanden das letzte Wort. Rhapsodistisch. Es gibt bei Metz kein Approfondimento del pensiero. Ma il parla un po' rapsodicamente. Sì. Und das geht alles in narrativen Theorien. Das macht sie auch relativ leicht, nicht? Und auch für den Gebrauch, für den Benutzer eigentlich relativ angenehm. Es sind sehr anregende oder zum Teil ganz anregende Worte und so weiter, aber es ist wenig an Geist, es ist wenig an fundiertem Hintergrund da. Il metodo di Metz però non dà molto da riflettere sistematicamente su questo, perché il suo metodo è piuttosto rapsodico, cioè appartiene allo stile della teologia narrativa, però non permette di comprendere esattamente tutta la portata, il fondamento stesso del suo pensiero. Un sintomo. Metz ha elaborato tre teologie nella sua vita relativamente breve finora, durante sempre in un lustrum, in un quinquennio da 62 a 67 è stata una teologia della secolarizzazione in parallelo della teologia di Friedrich Gogarten, chi prima di lui ha elaborato tutto lo stesso, no? E nel prossimo quinquennio, e in quinquennio anteriore il ha elaborato una teoria della antropocentric di San Tommaso e della teologia e filosofia cristiana in genere. Da 68 il ha elaborato la teologia politica e due anni dopo ha dato modificazioni abbastanza considerevoli. La memoria a Gesù, la teologia narrativa, eccetera, e poi la teologia fondamentale pratica, eccetera. In frattempo anche ein gewisser Rückzug, seine Theorie sei eigentlich nur hermeneutisch zu verstehen. Limitazione del suo, con mitigazione la sua teoria politica sia piuttosto una ermeneutica. È piuttosto una ermeneutica. Sì. Ecco, questo già nella risposta Maia, già molto prima. Sì. Questo già, cioè quando lui risponde alla critica di Maia, già precisa. In questo senso lui la sua teoria. Sì. Soltanto come ermeneutica e non come etica della situazione. Allora, voleva sapere anche se lei può sviluppare di più qualche considerazione sul metodo necessario, utile, che lei vede come risposta al problema. Cioè, come guardare prima la filosofia, prima la situazione, in che misura partire dalla situazione, passare alla filosofia, per evitare la rapsodia o avvicinarsi all'unità. Sarebbe un gran programma positivo, no? Ma lei non è per la rapsodia, no? È per l'unità? Per un sistema molto aperto, se è possibile, se qualcosa di tale possibile. Wir müssen einfach bereit sein, in einer gewissen Wachheit, auch Beweglichkeit, Anregungen dort aufzunehmen, wo es gute Anregungen gibt. Wenn jemand sagt, dass er Epizismus, sage ich, oh, wenn es nur nützt. Oder wenn es nur den Menschen nützt. Dobbiamo essere desti e insieme aperti, no? A cogliere ogni elemento positivo, ma insieme vigilanti. Come dice l'Apostolo, prüft alles, was gut ist, behalte. Ohne Furcht, senza paura, tun Eklektizismo. Und diese Furcht ist dann nicht berechtigt, wenn wir eben nicht von der Philosophie das Heil erwarten und unsere ganze Welt anschauen. Wir bauen nicht, unser Selbstverständnis ab ovo, von den Wurzeln philosophisch auf. Ich meine, man müsse bei allem Respekt vor der Philosophie, zum Beispiel der Philosophie Hegels, sagen, philosophisches Denken als wissenschaftliches Denken ist ein sekundärer Modus des Menschseins. Ich meine, man müsste bei allem Respekt vor der Philosophie sagen, es ist... Vorrei dire che è la risposta del credente, ma loro chiedevano come teologo, ecco, se oltre che questa disponibilità ad accettare tutto, c'è anche qualche criterio. Es wird verschiedene Theologien geben, je nachdem, welche theologische Richtung, welche theologische Idee den bestimmten dominanten Einfluss hat bei einem bestimmten Einzelnen. Mir scheint, die Frage geht ein bisschen nach einer Grundzüge, einer Methode. Kriterien, ja. Lässt sich ein System von Kriterien hier aufstellen? Es gibt sicher Kriterien, mit denen bestimmte philosophische Richtungen als nützlich ausgeschlossen werden können. Aber auch nicht schlechthin ausgeschlossen, denn selbst ein Materialismus kann auch die ein oder andere grundlegende gute Anwendung geben. Ci sono criteri per escludere certe filosofie, però anche qui con limitazione, non, perché anche determinate filosofie che a prima vista appaiono da escludersi possono avere anche qualche elemento utile. Per esempio il materialismo, materialismo. O il marxismo. Trentin, vorrei fare due domande. La prima rivolta a lei, la seconda rivolta al pubblico, ai confratelli, ai colleghi, come vogliamo chiamarli. Prima domanda, chiavi un'informazione anche non specialistica della filosofia contemporanea oggi avverte che sta emergendo una tendenza, e cioè a considerare colui che fa filosofia, in modo particolare filosofia della scienza o della conoscenza meglio, ad abbandonare un modello fondamentale, come poteva essere per esempio nel positivismo, di fare scienza, e accogliere altri modelli, di processi, di conoscenza. E quindi sta emergendo anche una figura nuova del filosofo della conoscenza, che è meno filosofo della conoscenza e più un analista dei vari metodi, dei vari approcci alla realtà attraverso strade diverse. Mi domando, ecco la domanda che vorrei rivolgere a lei, se qualcosa di analogo non sta avvenendo anche all'interno della teologia, se cioè il teologo fondamentale non debba diventare, più che per il passato, più che un teologo, uno che analizza vari modi, vari metodi di avvicinarsi alla realtà teologica, alla realtà della fede. Quindi più che un filosofo, un teologo, uno che analizza all'interno, per esempio, della realtà ecclesiale, e che analizza anche le conoscenze pastorali, cioè quelle del popolo, non solo quelle dei filosofi, perché anche loro hanno un modo specifico di avvicinarsi e di conoscere la realtà della fede. Questa è la prima. La seconda domanda, più breve, sarebbe rivolta a tutti. Io cercherò di rispondere per quanto mi riguarda, cioè noi tutti siamo teologi, più o meno facciamo un po' di ricerca, anche questa più o meno bene, potremmo esplicitare un po' di più il nostro metodo di ricerca. Quale metodo usiamo? Quale di questi tre preferiamo? Io per esempio faccio teologia morale fondamentale, mi trovo proprio a usare una molteplicità di metodi. Per esempio nei preliminari uso un metodo così comunicativo, simbolico, del linguaggio un po', appunto per cercare quel linguaggio, ecco, che permetta comunicazione, ecco, anche con altre culture, con altre, così, altre persone, altri filosofi, anche con la gente. Quindi poi la teologia fondamentale propriamente detta uso il metodo ermeneutico in questo senso, e poi per quanto riguarda la dimensione politica dell'agire cristiano, no, della fede, evidentemente mi è più congeniale il metodo meglio della teologia della liberazione. Non riesco ancora a vedere una unità e a preferire un metodo. Oggi come oggi preferisco il metodo ermeneutico così alla rigueur, ecco, per fare un riferimento concreto nella teologia fondamentale, propriamente. Siamo tornati al problema, unità pluralismo. Allora, la prima... Sì? Also ich meine wissenschaftstheoretische und sprachanalytische Untersuchungen seien sehr wichtig. Sie sind wichtig. Molto importanti le considerazioni criteriologiche e di analisi del linguaggio. Sie sind wichtig, um, wie es gesagt wurde, verschiedene Zugangsweisen zur Wirklichkeit, wie sie von verschiedenen Wissenschaften begangen werden, praktiziert werden, zu klären, vorzulegen. Diese Kenntnis ist pastoral wichtig für den kommenden Priester oder eben für den, der sein Glauben in dieser Welt verantworten will. Sie sind auch für die Theologie selbst wichtig, aber ich vermute eigentlich eher, um der Theologie zu zeigen, wie sie es nicht machen soll, weithin, oder welches nicht ihre spezifischen Wege sind. Denn der spezifische Weg der Theologie, den muss sie dann doch eigentlich selbst finden. Der bestimmt sich dann doch auch von ihrem Gegenstand. Also ich kann mir nicht von den anderen Wissenschaften sagen lassen, wie ich letzten Endes Theologie treiben soll. Nicht? Sono utili come approccio alla realtà e anche dal lato pastorale, però non possono venire assunti tali e quali dalla teologia che ha un altro modo di approccio alla realtà. Ich meine, diese wissenschaftstheoretischen und dann speziell sprachanalytischen Überlegungen haben doch wahrscheinlich stark nur instrumentellen Charakter. Das zeigt sich doch, dass ihre Ergebnisse oftmals sehr schmal sind, soweit ich also sprachanalytische Untersuchungen kenne. Verstehen Sie, was sehr schmal meint? Weniger. Loro risultati sono molto limitati, molto ristretti. In Deutschland gibt es sprachanalytische Schulen, etwa in Erlangen, die geben sich furchtbar viel Mühe zu zeigen, dass man Gott nicht aufweisen kann. Ich kann sagen, das ist ein Tisch, ich kann sagen, das ist eine Wand, ich kann nicht sagen, da ist Gott. Darüber werden vier Bücher mit 400 Seiten geschrieben. Aber man kann es auch auf vier Seiten oder in vier Zeilen eigentlich sagen. Und ich kenne so ein Buch, wo wirklich nicht mehr drinsteht, als das, was ich jetzt gesagt habe. Nur 400 Seiten lang. Nicht? Gut, das ist ein Grenzfall. Nicht? Aber zu Ihrem zweiten Punkt, der eigentlich ans Publikum gerichtet war, da würde ich doch sagen, das, was Sie beschrieben haben, als Ihr faktisches Vorgehen, das ist heute, ich glaube, durch die Situation erzwungen, also eine faktische Notwendigkeit, es so ähnlich zu machen. Aber ich frage mich, ob diese faktische Notwendigkeit nicht eigentlich viel sachgemäßer ist, als etwa die großartigen Systeme der früheren oder auch der jüngeren Vergangenheit. Als die Systeme von Hegel oder Schleiermacher oder David Friedrich Strauss oder in der jüngeren Vergangenheit sogar von Rahner. Ich würde also meinen, dieses Wählen verschiedener Methoden, verschiedener Ansätze, verschiedenen Instrumentariums, je nach dem Gegenstand, ja, das sei eigentlich sehr sachgemäß und eigentlich von der Sache her wünschenswert. Und wir sollten gar nicht so furchtbar bedauern, dass wir in einer Zeit leben, die nicht so große Entwürfe kennt. Diese großen Entwürfe sind anregend, aber sie sind doch durch die Bank auch falsch, wenn man so will. Nicht nur eben, was heißt falsch und was heißt wahr hier? Es gibt nichts, was ganz falsch ist und es gibt nichts, was ganz wahr ist. Nicht? Aber die Faszination der großen Entwürfe muss doch ein Christ ständig kritisieren. Nicht? Ich glaube, es ist christliche Art, christliche Aufgabe, keiner Idee auf den Leim zu gehen, die Faszination zu durchstoßen. Christ ist man sozusagen immer erst in actu secundo. Der actus primus ist die Faszination einer Idee und der Christ sagt in actu secundo, na, es gibt aber auch Bedenken. Il metodo empirico proposto come semplificazione ha una innegabile utilità pratica. Ma dal padre Kern viene anche lodato dal punto di vista di principio, perché in se stesso raggiunge più sostanzialmente forse fini che i grandi sistemi, la grande tentazione di ridurre in sistemi brillanti e unitari non raggiunge in egual modo e mette in guardia anziché con spirito critico proprio di fronte a queste grandi sistematizzazioni occorre mantenere il cristiano deve mantenere ed esercitare lo spirito critico. Ancora una posizione. E noi possiamo usare questa Galton. Questo atteggiamento. Questo atteggiamento critico, eclettico, un po' scettico piuttosto, o un po' scetticismo non è la posizione sbagliatissima. Perché il nostro sistema comincia per ognuno da noi 100 anni dopo. Il nostro sistema è nel cielo, si potrebbe dire, e sulla terra facciamo il nostro cammino un po' a destra, un po' a sinistra, per i sistemi e gli atteggiamenti diversi, con la testa un po' di sopra, questo sembra. Vai di. Volevo chiedere se l'ho capito bene, lei, non so anche con quanto ha esposto Turan, Pitt, Metz, e anche adesso nella discussione, lei è del parere che questa teologia fondamentale sia piuttosto una scuola di come pensare, che lei come teologo fondamentale possa dare qualche indicazione, teniamo conto di questo, di quest'altro, dato che la sintesi completa non è possibile, così lei dà un po', come dire, una metodologia delle convergenze. Metodologia. Anche per la teologia fondamentale, la scuola di pensiero. Non pensa che c'è un metodo della teologia fondamentale, c'è un spettro, un spectrum di possibili metodi, ansätze, punti di partenza, eccetera. Das scheint mir das Geschäft sogar recht interessant zu machen. Ein Abenteuer. Ein Abenteuer, das ich dachte berufsmäßig und dann sogar bezahlt dafür, in sehr vielen Töpfen kochen. Sehr vielen Töpfen kochen, das ist also interessant, von morgens früh bis abends spät. Nicht? Es sind die Probleme, die Menschen in der Vergangenheit bewegt haben und die auch heute jemanden also bewegen können. Dazu gibt es ein schönes Wort von Johann Gottlieb Fichte. In der Bestimmung des Gelehrten, einer Schriftvorlesung des Jahres 1794-95. Er sagt, die Philosophen, ich würde sagen, die Philosophen und die Theologen sind ein privilegierter Berufsstand, weil sie hauptberuflich, come professione, possono far questo, che gli altri uomini possono soltanto parsoniamente, also sehr sparsam, parsoniamente praticare, pensare sui problemi esistenziali dell'uomo. Ich fühle mich privilegiert, dass ich das tun darf, über diese Dinge nachdenken, trotz also der Schwierigkeiten, die das so von allen Seiten auch sagt. Aber immer sozusagen also auch mit der eschatologischen Hoffnung, also diese Wissenschaft ist nicht das, woran mein Herz zuallerletzt hängt. Zuallerletzt hoffe ich, dass ich also einmal das, was ich jetzt mehr oder weniger mühsam und freudig glaube, einmal also mit Gottes Hilfe und in Gottes Licht schaue. Dann unterhalten wir uns über die Philosophen mit ihnen selber weiter. Hoffentlich sind sie dann gut vertreten da oben. Queste filosofie colgono la cultura del tempo. Io vorrei chiedere al teologo di teologia fondamentale fino a che punto è disposto ad accettare una visione di cultura ampia, antropologicamente intesa, dove viene relativizzato il discorso filosofico, che è una delle componenti ma non è la componente portante della cultura, per cui mi andrebbe molto bene, per esempio, sentire se la filosofia deve essere, ci deve essere il confronto in obliquo con la filosofia più che il confronto in diretto, proprio come compito specifico della teologia fondamentale. Ja, ich würde, wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie gefragt, inwieweit ich, also, inwieweit ich bereit wäre, die Bedeutung der Philosophie im Gespräch des Menschen heute zu relativieren, zugunsten eben etwa anderer Erkenntnisse der Wissenschaften. Ich würde meinen, dass Philosophie und Theologie und man kann ja von der Theologie nicht die Philosophie abstreichen. Ich denke, dass die Philosophie zum Wissenschaftscharakter der Theologie wesentlich dazugehört. Dass das eigentlich notwendig ist, um davor zu bewahren, dass die anderen Wissenschaften ideologisiert werden. Dass irgendeine Wissenschaft sich über ihre relative Bedeutung hinaus absolut setzt. Dass man also etwa meint, mit Psychologie schaffe den Menschen das Heil. Oder, wenn es nicht die individuelle Psychologie ist, dann so eben also Soziologie der Kollektive. Ich meine, die Philosophie und die Theologie, in diesem Punkt braucht man beides, glaube ich, nicht zu trennen, haben eine unaufgehbare, unentbehrliche Funktion der Ideologiekritik gegenüber allen anderen wissenschaftlichen oder nicht wissenschaftlichen Angeboten, dass der Mensch sein eigenes Schicksal deutet. Also, Philosophie und Theologie werden considerate come inseparabili e il ruolo della filosofia con la teologia è ritenuto essenziale per proteggere o per impedire l'assolutizzazione di altri campi di conoscenza scientifica che altrimenti tendono a questo. Ma io non ho capito bene. Relativizzazione della filosofia era la domanda. All'interno di una visione di cultura, una cultura intesa con un senso ricco antropologicamente. Ich glaube, das Wort Relativierung ist hier zweideutig und wir müssen einfach dann diesen Begriff klären. Die Philosophie muss, um Philosophie zu sein, beanspruchen, dass sie irgendwie absolute Aussagen macht. La filosofia per essere tale deve in qualche maniera avere la pretesa di attingere l'assoluto. Aber die Funktion, die dieser Anspruch in der Gesamtgesellschaft hat und haben darf, kann durchaus relativ natürlich sein. Ma la funzione che questa pretesa ha nella società può essere senz'altro relativa. Schon deshalb, weil es eine zweite Instanz noch gibt, die ebenfalls in gewissem Sinne absolute Wahrheitsansprüche erhebt, nämlich die Theologie oder wenn Sie wollen lieber der Glaube der Christlichen. Già per il fatto che c'è un'altra istanza che ha pretesa di assolutezza, la teologia o meglio la fede. Insofern kann die Philosophie sehr relativ sein in ihrer konkreten faktischen Funktion in der Gesellschaft, was nicht ausschließt, dass sie doch nicht aufgehen darf in der Aussage von Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten haben in der Philosophie nicht allzu viel also Platz, vermute ich. Meine Meinung la funzione concreta mantiene un ruolo relativo, ma questo non implica che le sue asserzioni debbano essere relative. Man hört heute nicht gerne das Wort, viele Leute hören nicht gerne das Wort Metaphysik, seit Kant, nicht? Aber ich denke, Philosophie ist Metaphysik oder sie ist nicht. Doch zu einem entscheidenden Punkt. La filosofia che rinuncia a un contatto con l'assoluto non è più tale. Wobei dieses Absolute natürlich nicht sagen muss Gott, nicht unbedingt sagen muss Gott, aber eben das Absolute gibt es auf sehr verschiedenen Ebenen, nicht? Also, se io ho capito bene, l'istanza per me è molto profondamente cristiana, vuol dire in questo senso, che ci sono due modi di valorizzare ogni pretesa di assolutezza. Uno, che viene adoperato direi in senso egocentrico o anche ecclesiocentrico, e l'altro in senso di funzione relativizzante, cioè chi ha l'assoluto o chi ha l'approccio assoluto deve, potrebbe o assolutizzare sé, ecco un rischio, o invece per me la vera funzione è quella di operare, c'è un bisogno oggi, la relativizzazione di tutti i pretesi assoluti. Ho questa impressione che, secondo, che oggi anche la filosofia, soprattutto se maneggiata dal teologo fondamentalista, dovrebbe essere fatta funzionare non come pretesa di assolutezza, sì, sì, sì, ma come aiuto alla relativizzazione, eventualmente anche della una funzione essenziale critica. Non è così, da così dire, un passista di pace. Un arma per um die anderen tot zu schlagen. Sondern viel eher ist das Absolute ein Raum, in dem ich mit allen anderen Menschen, also nach dem Zweiten Vatikan und Atheisten und was sie wollen, inbegriffen, nicht zusammen versuche, sachlich zu denken, vernünftig zu leben und nicht nur vernünftig, sondern auch noch irgendwie solidarisch. Ich meine, Gott also ist nicht etwas, was mich eng macht, so eng führt auf eine bestimmte Idee, Gott ihm, sondern etwas, was weit machen muss und offen. Und alles also eher ein Raum der großen Toleranz, nicht ein Instrument der Widerlegung oder der Bekämpfung des anderen. Nicht, aber ich weiß nicht, ob das auch in der Richtung Ihrer Frage etwas lag. Se vuoi una battuta, scusami Valentin, l'ultima parola a te, una battuta perché lo continuiamo. Posto che la teologia fondamentale abbia uno scopo, in che modo si può comporre, i contenuti nel senso ovvio della parola e la metodologia nella teologia fondamentale? In che modo mettere insieme contenuti e metodo? Sì, si è parlato prima di metodo, di metodologia. Si può ricondurre la teologia fondamentale a una metodologia? Ricondurre. Oppure la teologia fondamentale può e deve avere anche dei contenuti? Questo è collegato col fine, ovviamente. Also, ich würde durchaus meinen, dass man weder die Theologie im Ganzen noch einzelne Sparten der Theologie zurückführen kann auf eben also bloße methodische Reflexionen und so weiter. Das ist manchmal eine gewisse Tendenz der Theologen, die ich glaube etwas feige also sind oder die also sich die möglichst sicher und möglichst einwandfrei eine Äußerung machen wollen. Wir brauchen Inhalte. Und ich glaube, das ist die unverzichtbare Aufgabe des Theologen, sich dem zu stellen und nach besten Kräften zu versuchen, das methodisch zu sagen. Aber ich halte nicht viel davon, offen gestanden, dass man sich zuerst einmal mit der Methodik der Theologie herumschlägt, also abgibt. Ich meine, das ist eine zweite Rede, das ist Reflexionsweise. Weder Kant noch Hegel haben über ihre Methode reflektiert. Hegel hätte es gar nicht tun dürfen, hat er zu viel als zu wenig getan, weil Reflexion über Hegels Methode im Grunde ganz systemwidrig für Hegel ist. Nicht? Also, und sie haben trotzdem Großartiges gedacht. Und wer heute mit der Methode anfängt, der kann eigentlich wirklich nur über nichts nachdenken. Also, non è riducibile a una pura metodica, no? Il contenuto deve in qualche maniera, cioè essere preso di mira per quello. Allora io faccio la tutta parte di concludere, ringraziamo parla della fatica ma la smonta con un certo ardore, mi sembrava che fosse scritto. Prima vorrei di nuovo per i nuovi insistere sulla finalità di questo nostro incontro. Leggo le tre righe che sono state mandate ai quattro relatori. Il tema è di teologia fondamentale. Per teologia fondamentale si intende la riflessione che ripensa globalmente la fede cristiana in rapporto a una determinata cultura globale attuale. Tale cultura globale viene colta da varie scienze e abbiamo scelto le quattro. Poi preciso, non si tratta di fare un convegno interdisciplinare, deve parlare in prima persona il teologo, secondo la particolare competenza acquisita nei confronti del dialogo con una delle determinate scienze. Le domande sono: come vede il teologo la provocazione che la teologia riceve da quella determinata scienza, stessiamo sociologia, psicologia, eccetera, questa volta le scienze storiche, in quanto questa scienza interpreta istanze culturali di oggi? Quali le ripercussioni sulla fede e sulla teologia? Quali contributi eventuali possono derivare a quella determinata scienza e quindi alla cultura attuale dalla stessa fede e teologia? Con quali criteri realizzare il confronto tra teologia e quella scienza? Quali rischi, quali valori, eccetera? Avete capito di nuovo, ribadito la formalità di questo nostro incontro. Ecco.